Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi mi chiedono, ma lei è stupita del fatto che parteciperà all'ottava Olimpiade? Ho detto, oggi non sono stupita perché ho programmato passo per passo, quadriennio per quadriennio, questa impresa ed è nata così perché si poteva fare. Sarei stata stupita se qualcuno me l'avesse detto ai miei esordi, e anche perché inizialmente ciò che mi piaceva di più era stare in compagnia con i miei coetanei piuttosto che fare gli sforzi in canoa. Poi man mano che è venuto fuori il talento, io mi sono sempre più appassionata ed eccomi qua. La longevità di una carriera è il sacro graal dello sport. Il mistero è il simbolo per tutti coloro che intraprendono l'attività. Chissà per quanto sarò competitivo, è la domanda che assilla tutti gli sportivi, soprattutto gli agonisti. Ed è la sfida che lo sport pone a se stesso, con tutti i record, le statistiche e gli annali ad annaffiare il mito. La capacità di competere è anche una delle unità di misura dei limiti dell'uomo e della sua evoluzione. Ma bastano le parole e la dolcezza di Josefa Idem, campionessa olimpica della canoa, che abbiamo appena sentito, per capire quanto i numeri, la scienza e le regole, per quanto indispensabili, da soli non bastino a spiegare l'eccezionalità di un atleta o di un'impresa. Si potrebbero sfogliare le biografie dei più grandi campioni dello sport per capirlo. Non esiste un modo per arrivare in cima e rimanerci, o meglio, esiste sulla carta, lo si può intuire e alimentare. Poi, come dice Josefa, si va avanti passo per passo, volta per volta. Alla fine si conteranno le vittorie cercando qualche denominatore comune. Va bene così. Il margine di incertezza è il propellente ideale della capacità di stupire. E Destini Incrociati vuole sorprendere oggi con la storia di due trentenni terribili. La cosa più difficile è allenare la testa, nel senso che comunque tutto parte da lì, tutto parte dalle motivazioni, dalla forza che hai dentro e poi dopo il fisico viene dopo, anche se ovviamente è importante che sia integro e che sia forte. Ringraziamo Alessandra Sensini, velista pluridecorata ed esempio ancora in attività, per gli ultimi consigli prima di intraprendere il nostro viaggio. È la testa a farla da padrone, è lei il muscolo che necessita il maggiore allenamento. È da lì che tutto comincia, per poi allargarsi a ogni singola fibra del corpo. Se la testa è sgombra da fardelli inutili ed è in sintonia con tutto quello che la circonda, allora l'impresa è possibile, allora si può pensare di stupire il mondo. E proprio di questo parleremo oggi, di due atleti, due teste e due corpi non più giovanissimi che hanno saputo trovare un terreno comune, trasformando una squadra da ottimo team a corazzata invincibile. Sono poco più di 50 i chilometri che separano Milano da Varese. Un'oretta di macchina, una strada che va dritta, piantonata da industriose costruzioni. Nel periodo che va dai miracolosi anni 60 ai turbolenti 70, questo fazzoletto di terra serve a tenere separati i due regni della pallacanestro nazionale. Da una parte il feudo varesotto dipinto di giallo-blu, dall'altra la fortezza milanese, su cui si muovono le mitiche scarpette rosse, il simbolo della pallacanestro del capoluogo. Qualcuno nei paraggi come Cantù e Bologna cerca di intrufolarsi, ma sono incursioni sporadiche. Tutto il grosso della gloria se lo dividono le due regine. La rivalità si arricchisce di tutti gli elementi che incontra per strada, distribuendo equamente qualità e caratteristiche. Varese, per la sua costituzione, attinge al gioco corale e in mezzo a un sistema ben definito è solita utilizzare terminali micidiali per sconfiggere gli avversari. Milano, anzi la Simmental per tutti, tende a strizzare l'occhio all'anarchia e si diverte a mettere in mostra supereroi come Bill Bradley per prendere il largo. Non è Davide contro Golia, ma un incontro tra due pesi massimi, con dietro tutto lo staff e la gente a urlare nel palazzetto. In un certo senso anche le proprietà rispecchiano valori diversi. Milano ha il viso e il corpo del suo fondatore, Adolfo Bogoncelli, un trevigiano con in mano una discreta fortuna e nelle vene una grande passione per lo sport. Non ci sono studi che tengano, Bogoncelli dedica la sua vita alla creazione e allo sviluppo della Olimpia Milano, con quello sguardo proiettato in avanti che lo porterà spesso a essere un precursore. Varese, dal canto suo, si è messa da poco nelle mani di Giovanni Borghi, il Cumenda, più imprenditore di Bogoncelli, più mecenate forse, proprietario di un'azienda produttrice di elettrodomestici e desideroso di portare la città in cima. E questa è la fotografia che fa da sfondo alla storia di oggi. Siamo negli anni 60 e Varese, spinta da patron Borghi, vuole seminare. La prima squadra è là in alto a combattere per mantenere la posizione. Un buon imprenditore però non si limita a osservare compiaciuto la cassa che si rimpingua, ma lavora per il futuro. Ecco perché la concentrazione si sposta spesso sul settore giovanile. L'obiettivo è creare un buon vivaio che permetta alla squadra di garantirsi una continuità negli anni. Il compito viene affidato a Nico Messina, uno dei fautori del miracolo Ignis Varese, che decide di rastrellare il territorio per scovare i campioni del domani. È il 1962 e alla palestra Pascoli di Viale Ippodromo a Varese c'è una partita di pallacanestro tra scuole. Un sacco di ragazzi sono seduti sugli spalti e si scambiano sguardi curiosi e risa, tenendo ben stretti tra i palmi i loro sogni. Seduto su una delle due panchine c'è il professor Nico Messina, che da tempo è un osservatore dell'Ignis, sempre alla ricerca di nuovi talenti. Messina, nei mesi precedenti, aveva allertato i suoi collaboratori: andate in giro, spargete la voce e trovatemi dei ragazzi alti e forti che abbiano voglia di imparare a giocare a basket. Nico è uno svelto di mente, uno di quelli che ha la carriera disegnata davanti agli occhi. Non si limita allo staff, ma coinvolge anche giornalisti e giovani. Non dà informazioni precise, chiede di portare amici, amici di amici, purché non siano bassi. È così che in mezzo a quei ragazzi andati a vedere la squadra del professore capita di trovare il piccolo dodicenne. Il suo nome, ormai l'avete capito, è Dino Meneghin. Dino Meneghin. Dino è in effetti un giovanotto grande e grosso, un bellunese di Alano del Piave di 12 anni, e pur mescolato a tanti giovani non si può fare a meno di notarlo, anche perché è uno dei più sorridenti e sul suo volto non c'è nemmeno l'ombra della tensione che a volte si abbatte sui ragazzi della sua età. Lui è così, e così è sempre rimasto, figlio di un'epoca e di uno sport diversi da quelli che ci circondano oggi. La differenza è nello spirito, almeno questa è la spiegazione che darà anni dopo. Si può vivere forse questo spirito forse nelle serie più basse, dove ancora c'è molto volontariato, c'è la voglia dei giocatori di giocare per lo spirito, il puro spirito di partecipazione, di divertirsi, di sacrificarsi, di accontentarsi di anche degli alberghi che forse non sono 5 stelle. Adesso lo spirito dei giocatori, soprattutto se si parla dei piani alti, è di puro impegno. Mi paghi, gioco, se non mi paghi vado. Dino è un esuberante e non ha peli sulla lingua, come avete sentito. Tutta quell'energia sprigionata non può certo passare inosservata. Seduto sui gradoni della palestra in cui è stato portato, scherza e ride con gli amici. Lui è lì più che altro per curiosità e lo sguardo è sereno e gioioso. Chissà, forse è questo mix, questa carica mai cattiva che scorre in vene gigantesche. O forse è solo l'altezza e la stazza e per ora può bastare. Fatto sta che Nico Messina lo punta in mezzo a tutti gli altri e gli fa il segno di farsi avanti. Stupito, Dino capisce che il tizio davanti ha deciso di insegnargli la pallacanestro. E lui, come ben ci si può immaginare, accetta la sfida. I collaboratori di Messina in realtà sono un po' perplessi. Meneghin è sì un giovane alto e robusto, ma non ha la più pallida idea di cosa sia la pallacanestro. A 12 anni si può rimediare, ma si può prendere anche una gran cantonata. Messina però pare sicuro. Guarda negli occhi prima il suo staff, poi Meneghin e gli dice: tu non sai fare nulla, ma imparerai a fare tutto. Ci vediamo domani. Dino è senza parole. Non è una cosa che gli capita spesso, ma è veramente senza parole. È andato lì senza grandi aspettative, per amicizia, per divertimento, per placare quella sua inesauribile sete di esperienze. E ora si ritrova a dover imparare a giocare a basket mica per scherzo. Si tratta della Ignis, la squadra più forte d'Italia. Corre a casa della madre con una faccia divisa tra lo sgomento e lo stupore, un rapido festeggiamento, un abbraccio e poi subito a pensare a domani. Ma c'è un particolare. Mancano le scarpe. Dino non ha mai giocato in una squadra di pallacanestro. Giusto un po' di atletica, getto del peso e lancio del disco, e non ha le calzature adatte. C'è Ci pensa la mamma che corre a comprarne un paio. L'indomani Meneghin si presenta con la sua bella faccia da giovanotto all'allenamento e tutto soddisfatto sfila dalla sacca un paio di sfavillanti Superga rosso fuoco. Per poco a Messina non gli viene un colpo. Proprio il simbolo degli odiati avversari, un paio di scarpette rosse nel feudo giallo-blu. Persino i compagni non sanno che dire. Nico squadra il ragazzone dalla testa ai piedi e poi dice: «Ok, tutto bene. La prima cosa da fare è cambiare le scarpe». Ora che anche l'ultimo dettaglio è stato sistemato, si può cominciare. La favola Meneghin ha inizio. E fa il giro del mondo e chissà dove è nata. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Meneghin ci mette 4 anni ad arrivare in prima squadra. 4 anni passati a imparare i fondamentali e cercare di fermare Marcantoni come bovone in allenamento. Trova la sua ideale collocazione come pivot, ruolo che impone una gran massa fisica e tante gomitate sotto il canestro, con lo scopo sia di segnare sia di creare spazi ai compagni. Dino riesce bene e in più ha uno straordinario senso dell'anticipo, doti che lo spingono verso il basket professionistico. È il 1966 e Meneghin esordisce con la maglia giallo-blu. Il nostro protagonista balza in sella alla Ignis Varese e sfodera un quindicennio indimenticabile. Col passare degli anni le vittorie, i trofei e i riconoscimenti prendono spazio e arrivano a mettere a repentaglio la tenuta della bacheca. In campionato Dino conduce la sua squadra attraverso l'eterno duello con Milano. Dal 1968 al 1978 Varese conquista per ben 7 volte il campionato nazionale. In panchina i primi anni c'è lo stesso Nico Messina che qualche anno prima lo aveva individuato in mezzo ad altri ragazzi e gli aveva buttato via quelle odiate scarpette rosse. Dopo Nico toccherà a Daza Nikolic sedersi sulla panchina giallo-blu. E per chi si sta chiedendo come è possibile arrivare in una squadra che si trova da tempo più in alto di tutte e riuscire a mantenere la quota, la risposta la fornisce lo stesso Meneghin. Ma la cosa più bella, ti dico, era non essere mai sazi e soddisfatti di quello che sarà fatto. Perché c'era Nikolic, per esempio, che quando si vinceva una partita, l'allenamento successivo era molto più duro, molto più intenso, perché non voleva che noi ci adagiassimo. E la sua grande paura era proprio quella che noi fossimo soddisfatti di quello che avevamo ottenuto e non guardassimo al prossimo impegno con la stessa attenzione. È la fame di vittoria a spingere i giocatori verso il successo e la squadra si dimostra all'altezza difendendo a denti stretti la raggiunta supremazia. Non fosse per quel cocciuto team con le scarpette rosse, si potrebbe parlare di dominio. Ma è proprio la rivalità a rendere ancora più straordinario il periodo. Dino ci mette poco a entrare nel cuore della gente e non solo grazie ai punti e alle innumerevoli sgomitate sotto canestro. Meneghin si fa largo grazie alla sua euforica energia e alla voglia di divertirsi sempre. Durante la sua permanenza a Varese non lesina scherzi ad amici e colleghi e qualche volta pure ai giornalisti. Si passa dai più classici svuotamenti e scambi di borse alla più pestifera purga di massa. Per gli inviati della carta stampata, invece, la parola d'ordine è non lasciare mai un articolo incustodito. Meneghin potrebbe essere nei paraggi. Si ride e si scherza, quindi, ma senza il timore di rappresaglie o di querele. Dino ha dalla sua la stazza, naturalmente, ma anche un'evidente e irresistibile bonarietà di fondo che lo rende inattaccabile. Il volo di Varese non si limita ai confini nazionali. I gialloblu caricano forte anche in Eurolega e negli anni che vanno dal 1970 al 79 vincono il trofeo per ben 5 volte, a cui si devono sommare altrettanti secondi posti. Quello che tra le mura domestiche è un duello infinito con il capoluogo lombardo, in Europa si trasforma in scontro tra Italia e Spagna. Su 10 finali disputate, per 4 volte le magliette avversarie sono quelle del Real Madrid. Le due squadre si divideranno equamente vittorie e sconfitte. Palla la Mobel Girgi, Biellini, Ostola, Campion, 14 secondi alla fine, Ostola si libera, poi preferisce conservare il pallone anziché tirare e vi è un rilancio del Real Madrid che va a cadetto con Bramenter, 81-74 e sirena finale. La Mobel Girgi ha vinto la Coppa Europa superando nella finale di Ginevra il Real Madrid per 81 a 74. A cavallo degli anni 70, Meneghin è ormai uno dei giocatori più forti del panorama cestistico europeo e anche la nazionale, come naturale che sia, ben presto si avvale del gentile contributo di Dino. Come una specie di pietra filosofale, il nostro protagonista riesce a trasmettere il suo entusiasmo e la sua abilità anche alla squadra azzurra, che nel 1971 e nel 1975 conquista il bronzo agli europei e nel 1980 arriva a un passo dalla vittoria olimpica. È la fortissima Jugoslavia a fermare i sogni della nazionale in finale. Per Meneghin e soci rimane comunque un argento che ha il sapore dell'impresa. Il 1980 è un anno importante non solo per la cavalcata olimpica, è la fine di un'epoca, la firma in calce, l'impensabile che diventa realtà, l'ultimo anno di Meneghin a Varese. Dino si lascia alle spalle una collezione da Oscar fatta di 7 scudetti, 5 coppe dei campioni, 4 coppe Italia, 2 coppe intercontinentali e 2 coppe delle coppe. Con la maglia gialloblu ha giocato in campionato 393 partite segnando 5.181 punti. Ma la cosa che più lascia interdetti, la domanda che tutti si pongono è: Meneghin è arrivato al capolinea? Mentre tutti si interrogano sul futuro del bellunese, lui prepara lo scherzo meglio riuscito della sua carriera. Il passaggio alla temuta e vituperata Milano. Quello che sembrava impossibile agli occhi dei più si trasforma in realtà, sfoggiando un discreto numero di effetti speciali. Sono tanti i fattori che intervengono a evitare una sommossa popolare o anche solo un fastidioso strascico. Innanzitutto, la fine di un ciclo che coinvolge entrambe le società. I presidenti Borghi e Bogoncelli, infatti, abbandonano le rispettive poltrone, chiudendo un'epoca storica. A Milano arriva la famiglia Gabetti con tanta voglia di mettersi in mostra. Poi la carta d'identità. Meneghin ha superato da poco i 30 anni ed è naturale pensare che il meglio potrebbe essere già andato a canestro. Infine, e qui il merito va tutto a Dino, c'è tutta la personalità e la presenza del nostro protagonista che per anni ha combattuto e conquistato palloni trascinando insieme ai suoi compagni Ossola, Zanatti, Morse e Kenny una città e portando con orgoglio la maglia della nazionale in giro per il mondo. Non c'è timore di essere ripresi o smentiti quando cammini a testa alta. La verità è che davanti al musone di Dino c'è un punto interrogativo grosso come una casa. Che tipo di giocatore sarà Meneghin? Davvero riuscirà a vincere più di quello che ha già fatto? Riuscirà a trovare le motivazioni? Ci vorrà qualche minuto, un altro trentenne terribile e un po' di slang italo-americano per rispondere alla domanda. Tra poco, a Destini Incrociati. Hello, I'm Giuseppe, I got something special for you. Ready? Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just about the eighth grade, mama used to say, don't stay late with the bad boys. Always shoot the pool, Giuseppe going to flunk a school. Boy, it make me sick, all the thing I gotta do. I can't get no kicks. Destini incrociati. Destini incrociati è sul parquet di Milano a osservare incuriosito un ragazzone di 30 anni che ha deciso di ricominciare da capo. Dino Meneghin, anima e cuore della pallacanestro varese, è da poco passato agli odiati cugini milanesi dopo un quindicennio di successi strepitosi con la maglia gialloblu. Per il fuoriclasse italiano ora inizia la sfida più difficile. Continuare a vincere e convincere, schiacciare tutti i dubbi e le domande che lo circondano, soprattutto osare, dove gli altri nemmeno si avvicinano. È questo che fa di un grande giocatore un campione, ed è questo che Dino sta cercando da anni mentre corre e salta sul parquet. Ognuno ha le sue cappe, il suo karma e la sua criptonite, e per Meneghin vale lo stesso discorso. Ma mentre risulta difficile capire quale sia il punto debole di un gigante che domina la scena da anni, più volentieri prestiamo l'orecchio al fenomeno per ascoltare la ricetta segreta che lo ha nutrito durante la sua carriera. Tanti anni sempre nella stessa squadra e molti anni sempre con gli stessi compagni di squadra. Tanti anni e stessi compagni, dunque. Anche a Milano la storia dovrà ripetersi, ma c'è il destino in agguato, perché senza sorprese non sarebbe la stessa cosa. È il momento di fare un salto oltreoceano. Game after game after game. I realize now what is most important in my life. Show me something more thrilling than a perfect volley. Tell me you've never dreamed the immaculate strike. Been part of that moment when an entire nation holds its breath. Tell me that was not our one common language when the whole planet stopped for 90 minutes to be witness to that one thing we all understand. Benvenuti all'NBA, l'unico posto dove la legge di gravità rimane sospesa per aria alcuni secondi prima di essere schiacciata con forza. Un posto dove per emergere bisogna sudare e lottare e non smettere mai di guardare la telecamera per gridare I'm the man in faccia ai maligni e ai superbi. E qui, più precisamente, a Buffalo, contea di Erie, stato di New York, che è arrivato per lasciare il segno Robert Allen McAdoo Jr., da tutti chiamato Bob McAdoo. Bob atterra nel pianeta dell'iperbasket nel 1972, dopo un percorso tutto americano fatto di college e università. Arriva da quella North Carolina che qualche anno dopo terrà a battesimo il più grande di tutti, Sua Maestà Michael Air Jordan, e viene scelto per guidare la carica dei Buffalo Braves. McAdoo ha una buona media punti ed è uno dei giovani che più si è messo in luce. Buon per lui, l'NBA è sempre alla ricerca di ragazzi un po' sfrontati con una mira infallibile. Bob prende di petto il parquet americano e comincia a tirare. E naturalmente è canestro. Outside of McAdoo, look at that. They don't have anybody that can play the man. There's nobody out there that can stop him at all. Here's a drive by McAdoo, double team. He is unstoppable. I numeri di McAdoo si accatastano col passare del tempo, plasmando un giocatore solido come una roccia. Il primo anno viene nominato Rookie of the Year, matricola dell'anno. Nel secondo trascina i Braves ai playoff e si guadagna la convocazione per l'All-Star Game, la partita delle stelle. Inoltre vince niente meno che la classifica marcatori, mettendo a segno ben 2.261 punti con una media di più di 30 a partita. Al terzo anno è ancora re dei marcatori, alzando la media a 34 punti e aggiungendo il primato nei rimbalzi, cosa che gli permette di essere eletto miglior giocatore dell'anno. Nel quarto e ultimo anno Bob segna ancora una quantità industriale di canestri prima di passare ai New York Knicks. È un trasferimento un po' rumoroso. McAdoo vuole vincere e i numeri lo sostengono. Un po' meno il corpo, che ogni tanto gli tende qualche trappola. Bob passa i successivi 5 anni girovagando, concedendosi piccole pause per via di qualche problemino fisico, ma riesce a mantenere quella qualità che infiamma i tifosi, la capacità di fare canestro. Non solo grazie ai balzi del suo corpo di 206 cm, ma anche grazie alla precisione del tiro, fatto inusuale per un giocatore di quell'altezza. Arriva il 1981, l'anno in cui il totem Meneghin passa a Milano, e finalmente McAdoo arriva in una squadra che lotta per il titolo, i Los Angeles Lakers. Ero appena stato in un paio di squadre un po' deboli, poi è arrivata questa chance di giocare per uno dei team più forti e competere per il titolo, una grande opportunità per la mia carriera ed ero determinato. È con questo spirito che Bob scende in campo con la maglia giallo-viola e finalmente arriva la vittoria. I Lakers, trascinati dai suoi canestri e dai funambolismi di Magic Johnson e dai ganci di Kareem Abdul-Jabbar, vincono il titolo. La gioia di McAdoo ce la racconta Magic. Mi ricordo che quando vinse il suo primo titolo, pianse come un bambino. Sono le lacrime che battezzano la prima vittoria. Lacrime che avranno modo di ripresentarsi 3 anni dopo, nel 1985, quando i Lakers si aggiudicano un altro titolo. Ma la festa, questa volta, dura poco. Los Angeles gira la schiena a Bob, considerato ormai vecchio, e lo scarica. Philadelphia fa un timido tentativo, ma dura poco. Nell'estate 1986, ecco l'imprevisto. McAdoo decide di andare a giocare in Europa. Indovinate dove? Nel 1986, l'anno in cui Bob McAdoo fa scalo in Italia, Meneghin ha già vinto 3 scudetti da quando veste la maglia di Milano. Dino ha avuto modo di scacciare qualsiasi dubbio sulla sua voglia di vincere dopo una vita passata a Varese, merito della sua insaziabile fame e della sua classe. Ma siccome la pallacanestro è uno sport di squadra, il merito va anche ai compagni, come Mike D'Antoni, playmaker dalla mente affilatissima, e Roberto Premier, l'ariete di Spresiano, abituato a esaltarsi e a sprigionare agonismo. In panchina poi c'è un tizio americano la cui voce, una volta cacciata fuori dai polmoni, non può proprio fare a meno di entrarti nel cervello. Si chiama Daniel Lowell Peterson, ma per tutti è Dan Peterson. Ehi, sveglia bambolotti! 5 minuti per darci la carica! Sempre il solito, dico bene, mister? Sempre! E cosa credi, che non abbiamo Lipton? Meglio non correre rischi, perché in questa bustina ci sono 20 tipi di tè, tutti affiatati, come una squadra vincente. Magico Lipton! Per me, numero uno! Il vecchio Dan ci sa fare, tanto che finisce presto nelle pubblicità grazie al suo ineguagliabile timbro. Ma è sul campo che la grinta e la determinazione di Peterson trovano lo sbocco ideale. Il coach porta con sé dall'America una visione del basket aggressiva e veloce. Il suo motto è «sputare sangue sul campo» e i giocatori non possono fare altro che ubbidire. Ma il contributo di Peterson non si limita alle parole e alla carica. Il coach americano apporta anche novità tattiche. Su tutte, la famosa difesa 1-3-1. Uno schieramento che, grazie a un meticoloso lavoro di gruppo fatto di movimenti e pressing, trascina nella confusione gli avversari, consentendo alla squadra di sferrare colpi di grazia in continuazione. Funziona così. Coach Dan, dalla panchina, capisce che è il momento e, senza dire una parola, alza il braccio con le prime 3 dita della mano destra tese verso il soffitto. È quello il segnale. La squadra si schiera a 3 e il resto va giù liscio come una sorsata di acqua fresca. Ma dicevamo di Bob. McAdoo, come detto, è in Italia. È chiuso in hotel a riflettere. Non ha ancora deciso dove andrà a giocare. O meglio, il destino ha già scelto da un pezzo, ma il giocatore ancora non lo sa. La storia ve la riportiamo grazie a un articolo di Flavio Vanetti, giornalista sportivo di pallacanestro e biografo di Dino, che ci descrive il trasferimento di McAdoo. Fu già leggenda ancora prima di approdare a Milano, perché la squadra che stava per ingaggiarlo era Pavia. Non se ne fece nulla. In compenso, Tony Cappellari, il direttore sportivo di Milano, si ritrovò un biglietto di Bob sotto l'uscio della porta dell'hotel in cui alloggiava, dopo essere andato negli USA a cercare di ingaggiarlo. McAdoo in un primo tempo aveva detto di no, ma quel pezzo di carta conteneva il suo sì. Avrebbe lasciato un segno indelebile. Bob e Dino sono insieme. È il 1986 e secondo l'anagrafe il primo ha 35 anni e il secondo 36. A essere sinceri, sembrano un po' in là con gli anni per una pallacanestro competitiva, ma il bello dello sport, della vita si potrebbe dire, è che non sempre i numeri hanno ragione, o meglio, non sempre i numeri condizionano la realtà. McAdoo approda a Milano e si inserisce con la naturalezza del campione in una squadra già rodata, per cominciare a fare quello che sa fare meglio, giocare a basket e segnare punti a ripetizione. Meneghin crea spazi all'americano e diventa uno dei suoi fornitori di palloni principali. Il tutto per la gioia dei tifosi di Milano. Si gioca da 5 minuti. È andato il messaggio, McAdoo. Adesso siamo in parità, 3 contro 1 per la 3. E Ken Babo a realizzare. Ed è Mike D'Antoni a lanciare Bob McAdoo per Babo. Eccolo ancora in attacco, McAdoo. Vediamo che si alza, tira e trova finalmente il bersaglio, mentre Meneghin è stato scaraventato a terra con una gomitata da Meneghin. Conti della ripresa. Vediamo che McAdoo si è alzato per il tiro, adesso ha staccato il pallone. I compagni D'Antoni, pallone per Premier. Anzi, McAdoo, siamo nuovamente in parità quando sono stati giocati poco meno di 2 minuti. La Tracer ora è pronta per i miracoli. Meneghin e McAdoo hanno tutto quello che occorre per scrivere una pagina memorabile della storia del basket. Hanno esperienza, e questo è uno. Hanno la classe, e questo, oltre a essere due, è anche raro. Hanno la fame e la volontà, e abbiamo capito quanto questo sia fondamentale per essere dei campioni. Ora occorre mettere tutto questo sul campo e dimenticare per un attimo che di fronte potresti trovare gente molto più giovane di te. Milano comincia a caricare e a metà stagione è in corsa per tutto. Scudetto, Coppa Italia e Coppa dei Campioni. Si avvicina il momento decisivo, è il 1987, e il governo Craxi a breve rassegnerà le dimissioni per lasciare spazio al Fanfani numero 6, che dovrà traghettare il paese fino alle elezioni. In America, l'America di McAdoo, il Tracy Ullman Show tiene a battesimo i Simpson, la famiglia di cartoni destinata a entrare nel cuore di milioni di persone. Il Napoli, trascinato da Diego Armando Maradona, è in testa al campionato di calcio. A Sanremo vincono 3 grandi della musica italiana e la loro canzone invade l'etere fino a raggiungere le orecchie dei nostri protagonisti. Si darà di più, tra poco, a Destini Incrociati. In questa notte sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai, se la tua corsa finisse qui. Destini incrociati. Stiamo assistendo con il fiato sospeso alla cavalcata della corazzata di Milano, quella Tracer che tra le sue fila schiera due vecchietti terribili. Dino Meneghin, 36enne bellunese di Alano del Piave, gloria prima di Varese, poi del basket italiano e ora monumento del capoluogo lombardo, e Robert Allen McAdoo Jr., Bob per tutti, cecchino statunitense trasferitosi nello stivale a 35 anni per ricacciare in gola le voci che lo davano per finito. La Tracer è in lotta per tutte le competizioni. L'obiettivo è il Grande Slam, ovvero la vittoria di tutti i trofei più importanti della stagione. Facciamo un po' d'ordine e cominciamo dal campionato. Milano conclude la stagione regolare al quarto posto, ma si presenta ai play-off come una delle favorite. Superato il primo turno, la Tracer elimina Pesaro in una delle tante sfide che caratterizzeranno gli anni Ottanta, e poi Varese, proprio lei, l'eterna rivale, e vincere contro i temuti cugini ti dà sempre una carica in più. In finale trova Caserta. Milano è ormai lanciata e grazie all'apporto di Bob e Dino supera i campani in tre partite. Nell'ultima, disputatasi in casa, i tifosi alla fine di una gara molto tirata possono gioire insieme ai loro campioni. Porta avanti di due punti la Tracer Mai D'Antoni. Vediamo adesso. È a 8 secondi dal suo scudetto, ma c'è la Movingirgi che non vuole saperne. Vuole un tiro da tre. Vediamo, tiro da tre. Che non va a bersaglio! Ed è lo scudetto numero 23! Nel frattempo, la Tracer aveva già sbrigato la pratica Coppa Italia, battendo in finale Pesaro grazie a una grande prestazione di McAdoo, che ne infila 29. Due trofei sono già in saccoccia. Tocca alla Coppa Campioni, il torneo più difficile. Roba da uomini veri. La prima immagine della cavalcata in Coppa dei Campioni è la vittoria contro l'Aris di Salonicco. È solo una partita di qualificazione, ma è una sfida che lascia il segno. All'andata in Grecia, Milano perde di 31 punti. Per passare il turno, i ragazzi di coach Peterson devono quantomeno restituire lo stesso distacco, un'impresa disperata. Guidati dai tifosi che ancora oggi ricordano quella serata, Meneghin e soci riescono nel miracolo e nel ritorno battono l'Aris 83-49. Ecco D'Antoni che gira in palleggio, gira la palla come ha fatto mille volte, gira la palla e c'è fallo finalmente, tutto il pubblico in piedi, tutti applaudono a mani levate a questa grande squadra che ancora una volta nel momento che sembrava drammatico per la sua vita è riuscita a conquistare una qualificazione che sembrava dover essere impossibile, ma la Tracer si qualifica per il girone finale di Coppa Europa. La vittoria contro i greci non è solo una vittoria di squadra, è un grido di guerra verso tutti gli altri team. Milano quest'anno è una belva assetata di gloria, qualsiasi sia l'avversario che gli viene messo di fronte. Meneghin e McAdoo infatti sembrano avere 20 anni, corrono, saltano e tirano, fino a trascinare la Tracer in finale contro il Maccabi di Tel Aviv. Milano arriva all'appuntamento con la partitissima con la carica giusta. Aspetta questo trofeo da 21 anni. La partita è vibrante e l'agonismo spesso prevale sullo spettacolo. Le due squadre rimangono vicine nel punteggio fino alla fine, in un crescendo di tensione agonistica che infiamma il pubblico presente a Losanna. A meno di un minuto dalla fine, i lombardi sono in vantaggio di 2 punti, ma il suo capitano Meneghin è accasciato per terra dolorante. Dino era già in condizioni precarie prima della gara, ma naturalmente non ha voluto abbandonare i compagni nel momento del bisogno. Complice una gara spigolosa, adesso è infortunato e si rialza zoppicando vistosamente. Bisogna tenere duro, ancora pochi secondi. È molto più agile ovviamente l'avversario di Beneghin. Vediamo come andrà questo salto a due in zona di attacco per la Tracer. Attenzione al contropiede. Mecca 2 ha spostato in posizione difensiva, deve saltare Beneghin che non ha la possibilità di andare in elevazione, però è Beneghin che ha conquistato la palla, è Beneghin che ha conquistato palla, c'è un fallo adesso su Boselli, c'è un fallo, deve liberarsi la palla, Beneghin ha sbagliato, Beneghin, l'incredibile, incredibile situazione, era il canestro della vittoria, forse c'è anche un fatto, non si sa, Beneghin doppica vistosamente, si era liberato, ha tirato troppo pesantemente e è ancora una situazione che può diventare drammatica. 4-2 secondi, prende la palla la Tracer, ha vinto la Coppa dei Campioni 21 anni dopo il suo primo successo, e qui il pensiero deve andare anche ai grandi del passato, ad Adolfo Bovoselli che ha costruito questa squadra, a Rubini che l'ha portata a tutte le vittorie, mentre vedete l'entusiasmo legittimo e giustificato dei tifosi italiani. L'immagine del trionfo di Milano sta tutta in quella palla del possibile pareggio tirata da un israeliano che finisce nelle mani di McAdoo. Bob la guanta, stringendola al petto come se fosse la coppa. La trattiene 2-3 secondi, il tempo che il cronometro vada a zero. Poi urla tutta la sua gioia. È finita. La Tracer ha vinto e lui e Beneghin sono stati i protagonisti di una stagione memorabile. Proprio loro due, insieme a Mike Barlow, Roberto e Coach Peterson. Vince la squadra, ma c'è di più. Ci sono due campioni che sembravano aver già scritto le pagine più belle della loro carriera. Invece è bastato unirli per lasciarne scaturire tutta la classe e la voglia di vincere. Bob e Dino hanno vinto la loro scommessa. La straordinaria annata di Milano si conclude qualche mese dopo con la vittoria della Coppa Intercontinentale, vera e propria ciliegina sulla torta. Beneghin e McAdoo rimarranno insieme ancora 3 anni. Riusciranno ancora a togliersi grandi soddisfazioni vincendo un'altra Coppa dei Campioni e un altro scudetto, ma in stagioni diverse, senza ripetere l'eccezionale filotto del 1987. McAdoo verrà eletto miglior giocatore d'Europa, mentre Beneghin con la nazionale riuscirà a vincere un europeo, mettendo in bacheca l'ennesimo trofeo. Poi si divideranno. Bob terminerà la sua carriera in Italia all'incredibile età di 42 anni, in tempo per concedere i suoi canestri anche a Brescia, Forlì e Fabriano. Per Dino, che evidentemente proprio non ci sta ad arrivare secondo, la vita sotto canestro continuerà fino al 44esimo anno di età, in tempo per togliersi il lusso di giocare contro il proprio figlio. Beneghin verrà in seguito inserito nella Hall of Fame di Springfield, uno dei massimi riconoscimenti della pallacanestro internazionale. È tuttora considerato uno dei giocatori europei più forti di sempre, e poco importa che non sia riuscito a giocare nell'NBA, l'Eldorado del basket, nonostante un tentativo negli anni 70. Per lui parlano, senza lasciare spazio per ulteriori discussioni, le cifre della sua lunghissima attività. È difficile, in mezzo a queste sterminate biografie costellate di trionfi, trovare un punto, una singola prova che racchiuda in sé tutta la grandezza di questi due uomini. Ma l'annata del 1987 e il miracolo Tracer rappresentano un esempio indiscutibile. Due giocatori, due uomini che hanno dato uno schiaffo all'anagrafe e hanno contribuito a scrivere una delle pagine più belle del basket. Dino Beneghin e Bob McAdoo proveranno per anni a raccontare del perché e del per come la loro vita sia stata catapultata dentro a una favola. Il loro segreto, come Dino riesce a sintetizzare in un aneddoto, è stato quello di riuscire ad amalgamare perfettamente il percorso professionale e quello umano. Per esempio, io a 20 anni leggevo sempre Topolino, Tex, queste cose qua. E sul pullman un giorno Paolo Vittori, che è un grandissimo giocatore, mi guarda e mi fa: ma io ti vedo leggere solamente fumetti. E ora ai 20 anni, ora che tu cominci a leggere anche il Corriere della Sera, i quotidiani per imparare qualche cosa, sennò rimani una zucca come sei. E da allora ho incominciato a documentarmi su altre cose. Perché voglio dire che i maestri non erano solo sul campo, ma anche maestri di vita al di fuori. Grandissima cosa.